riesco più a non pensare a te. Non riesco più a pensare a te. Sì, Carlo. Yes, rientrando a Predanieda. Aspetta che accendo l'altro apparecchio. Ciao Antonio. Carlo, aspetta che accendo l'altro apparecchio. Eia, vai, vai. Attento, Carlo. Ehi, adesso ti sento più potente. Vabbè, è una radio con il microfono a tavolo. E chi cazzo è imbecille? E io mi niente, ho finito il turno di lavoro alle 8 e niente, mi rientrando, adesso sono arrivato dove c'è Tanit, alla rotatoria sono adesso. Capa, sei fortissimo qua, sei molto forte, sei. Sì, a Sassa già va bene questa antenna. Se esci fuori però non è che sia più o meno come l'altra. Capa. Sì, vabbè, dipende come è alimentata, quanta potenzialità è pure. Capa, bene, mi senti tu? A voglia, a voglia. Poi quella zona Puglia la compro bene, arrivo a fondoscala, arrivo. Qua sì, vedo il fondoscala del segnale. Non posso essere preciso perché ce l'ho un po' in basso la radio, capito Antu? Però vedo tutte le tacchette sino in fondo. Tranquillo, al 100% sono dove sei. Tranquillo al 100% che lì è la bomba. Ma sicuramente arrivo fino a Capomela, io arrivo forte. Un segnale molto, cioè arrivo bene. sicuramente, quella doma la copro la grande. E a voglia, qua mi sta vibrando anche la radio, come parli, qua ho la radio un po' piccola e quindi l'altoparlante un po' vibra come messo, capito? E niente, sono al semaforo fermo, capito? Adesso ho svolto verso il cimitero, verso Corso Trinità. Lì arriva ancora più forte, Oggi non vuole camminare nessuno, ogni due per tre si stanno fermando. Qui c'è una massa di dromedari, ma com'è che io guardo la moto e mi sorpasso tutti. Oggi è sabato e insomma non è sabato ma è venerdì santo, la gente è già scatenata, c'è un traffico che sembra mezzogiorno qua per Danieda. Capo, io me lo prendo un burro, ma tutto il giorno, caricando camion, bauli, di tutto, perché abbiamo, come si dice, devo andare a Castel Sardo io, gli altri sono a poco torre, c'è l'altra squadra. Ma cosa ci sono spettacoli lì a Castel Sardo? Gli Avion Travel, no? E quando sono, Antu? Lunedì. Cavolo, ma di giorno o di notte? Non me ne ricordo adesso gli orari. Alle 3 dobbiamo già fare le prove, sicuramente sono di sera. Mi sa che ci faccio un salto allora, perché io sono libero domani e dopodomani, cioè domani devo andare comunque all'aeroporto intorno alle 9, ma alle 11 me ne vado perché ho una riunione sindacale, capito? E ci devo essere per forza perché stiamo discutendo sulle ferie eccetera e dobbiamo preparare una griglia che un'altra parte ce l'ho io, la devo portare quindi vado, sto un paio d'ore ma non devo lavorare, poi me ne ritorno per la riunione alle 9, alle 11 dovrei aver finito poi a Pasqua sono libero e poi invece lunedì di Pasquetta purtroppo lavoro dalle 8 del mattino sino alle 16, però la sera sono libero, capito, alle 16 quando esco, se mi vedo un po' il giornale, perché gli Avion Travel, cavolo, facevano musica buona, me li ricordo da quando ero ragazzo. Ci sono anche altri, ci sono ogni rottura di barra, va a toccare lavorare a tempo record per piazzare l'impianto. Allora sono alle 6, fanno musica, capito? Ci farò un salto sicuramente, magari se riesco a convincere mia mogliera, se ne ha voglia, ci vado con lei, ci facciamo un giro così, Pasquetta, ci sarà un po' di traffico, soprattutto se sono belle giornate. Cavolo, oggi andando a lavorare sono entrato alle 14, intorno alle 13:30 ero sulla 4 Corsini, 26 gradi. Oggi me la aggaggio, vera. Stavo lavorando in magliettina. Stavo dicendo. E poi a Porto Torres ci sono in tazenda, ci sono. Ma ci sono altri gruppi prima, Ci sono. E chi mi ha più caricato Luca? Mia pomma ha più caricato. È passato un buon Luca Parodi stasera. Lo migliore di Andrea. Ho capito. Adesso sono in Viale Trieste, ti sento sempre a bomba qua, Antonio. Che problemi non venne conmigo. Adesso sto girando verso Viale Caprera, quella via che ne è l'opera il vecchio cinema, l'Ariston, da quello che è chiuso. Dipende da me, come ti muovi, qualche volta arriva anche il 25-30, dipende come ti muovi, sempre a bomba sei. Già è buona, per la città questa è una favola, questa antenna. Io non ho problemi io la gestione non ho più problemi, ma quando porto quella boomerang, prima va via la bombola nel balcone, avevo problemi. Adesso permesso e sono quasi arrivato. KK, non c'è problema, è 9 adesso sei arrivato, non sei in mezzo ai palazzi. A me sembra bomba, mi senti? Ehi Anto, sempre benissimo. Adesso sono all'edificio di via Luna e Sole. Ciao, 9:10 sei adesso, vabbè, considerando che ci sono i palazzi, sei in macchina, quindi non so il segnale mio, però sarà sempre a bomba. Qua sei sempre fondo scala, Anto, lo stavo guardando adesso, sempre forte, come ti sentivo giù a Fredanieda, ti sento qua uguale. Ciao, già 9, già va bene, dai. No, grazie a Dio, cavolo, ma mi hanno fatto anche un bel lavoro, l'antenna prende forte anche. Io infatti da prima stavo chiamando ma non c'era nessuno, niente, da lì per sotto tutto stavo attento, ho detto vediamo se c'è qualcuno, se c'è qualcuno in ascolto, poi ho sentito a te ma ero già arrivato, adesso sono arrivato proprio in via Dau, mi sto cercando a figlio, la verità, mi sono trovato. Gappa, lì sono alberi, cose, però già va bene, ti sento sempre, non ho problemi. E adesso sono parcheggiato fermo sotto casa in via Dau. E arrivo sempre la bomba. Un bombone, Anto, già va bene. Anto, io sono arrivato e niente, adesso mi aspetta la cena, mi cambio e me ne vado a tavola a mangiare. Ce la risentiamo domani, sì, hai fatto bene a dirmelo, se già mi guardo la nuova, tanto ci sarà qualcosa scritto lì su questa cosa degli avion trapper, cavolo, se riesco ci vado, capito? Ci sono io la sera, sì, bisogna passare un muro, ci sarà, già c'è i personaggi che lavorano con me, qualcheduno è tanto zincaro, per carità, diciamo proprio. E come da me lo stesso, mi metta uno che è poco zincaro, come dicono a Salta. Cappa. Quindi vabbù, Anto, ce la risentiamo, dai, mi ha fatto piacere sentirti, così ci siamo scambiati qualche controllino, dai, valori, eccetera. Già va bene, la tua radio funziona più che bene, ottima, sia la casa che in macchina, in movimento, si sente molto molto bene. Ti saluto, buona serata, magari ci vediamo domani. Ciao Antonio, alle prossime. Oh, lunedì da mandare. Ah, cioè lunedì, sì, adesso ero convinto. Sì, lunedì. Cappa. Adesso ti mando una cosa a dove.